Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Jim continuò a sostenere che non si vide più nulla dopo che era cessato il primo acquazzone. E gli altri diedero la stessa versione agli ufficiali della Avondale. Naturalmente il pubblico sorrideva e scuoteva il capo. Un vecchio capitano seduto vicino a me all'udienza mi sussurrò all'orecchio, sollecitandomi la pelle con la punta della sua barba bianca. È chiaro che mentivano. In realtà nessuno disse il falso. Neppure il primo motorista, con quel suo racconto della luce dell'albero di Maestra che era caduto come un fiammifero buttato via acceso. Almeno non consapevolmente. Un uomo con il fegato in simile stato che girasse di scatto la testa per guardare indietro avrebbe potuto avere con la coda dell'occhio l'impressione di una scintilla di luce. Non avendo scorto alcun lume, pur trovandosi a una distanza che consentiva di vedere ad occhio nudo, si diedero l'unica spiegazione possibile. Era una conclusione naturale e confortante. Il fatto che ciò che avevano previsto si fosse verificato così rapidamente giustificava la loro fretta. Non c'era da stupirsi che non avessero cercato ulteriori spiegazioni. Tuttavia la verità era molto più semplice e non appena Breer gliela suggerì, il tribunale l'accettò, ponendo così fine a ogni discussione. Ricorderete che la nave era stata fermata e che si trovava orientata nella rotta che stava percorrendo durante la notte, con la poppa sollevata e la prua abbassata a livello dell'acqua per la falla nel compartimento prodiero. In questa posizione precaria, quando il cassero fu investito dalle raffiche del temporale, la nave girò rapidamente con la prua al vento, come se fosse stata all'ancora. Con questo cambiamento di posizione, tutti i fanali della nave furono per qualche minuto invisibili dalla scialuppa che si trovava sotto vento. Quale fosse la fine che il fato riservava a ciascuno dei pellegrini non sono in grado di dirlo, ma il futuro immediato portò loro verso le 9 della mattina seguente una cannoniera francese proveniente da Réunion e diretta in patria. Il rapporto del comandante era di pubblico dominio. Aveva ordinato una leggera deviazione di rotta per verificare che cosa stesse succedendo a quella nave a vapore che galleggiava pericolosamente con la prua abbassata in mezzo alla foschia su un mare tranquillo. Sul picco di Maestra c'era la bandiera capovolta. All'alba il Seranga aveva avuto il buon senso di esporre il segnale di pericolo, ma nelle cucine di prua i cuochi stavano cucinando come di consueto. La coperta era affollata all'inverosimile come un ovile. C'era gente ammucchiata alle murate, ammassata sul ponte. Centinaia di occhi guardavano fissi e quando la cannoniera si affiancò non si levò una voce, come se tutta quella moltitudine avesse avuto le labbra serrate da un incantesimo. Thank you. avendo inviato il suo saluto e non avendo ricevuto alcuna intelligibile risposta, e dopo aver accertato con il binocolo che la folla sul ponte non sembrava colpita dalla peste, il capitano francese decise di inviare una scialuppa. Due ufficiali salirono a bordo, ascoltarono il serang e tentarono di parlare con l'arabo, non riuscendo peraltro a capire che cosa diceva. Ma naturalmente la natura dell'emergenza apparve abbastanza chiara. Furono anche molto colpiti dalla scoperta di un bianco morto e composto sul ponte. Forte intrighe, parse cadavre. Come mi disse parecchio tempo dopo un anziano tenente di vascello francese che incontrai un pomeriggio a Sydney per puro caso in una specie di caffè e che ricordava perfettamente tutta la faccenda. Quel francese non l'avevo mai visto prima e dopo un'ora ci eravamo legati per la vita e lui non sembrava neppure particolarmente loquace. Era un tipo tranquillo e massiccio, con un'uniforme spiegazzata, che sedeva con aria assonnata davanti un bicchiere mezzo pieno di un liquido scuro. Aveva le spalline un po' annerite, le grosse guance glabre di un colore olivastro. All'aspetto mi sembrò un uomo dedito al tabacco da fiuto. Non so se capite, forse non lo era, ma quella era un'abitudine che sembrava adatta ad un tipo del genere. Tutto cominciò quando lui mi passò al di là del tavolino di marmo un numero dello Home News che io non gli avevo chiesto. Risposi: merci. Ci scambiamo qualche innocente frase di circostanza e improvvisamente, prima che mi rendessi conto in quale modo ci fossimo arrivati, c'eravamo in pieno e lui mi raccontava quanto fossero stati imbarazzati davanti a quel cadavere. Venne fuori che egli era uno dei due ufficiali saliti a bordo. Il suo ampio petto si sollevava regolarmente mentre proseguiva il suo racconto. Era stato un lavoro infernale, come indubbiamente potevo capire anch'io in qualità di uomo di mare. Alla fine di questa frase piegò il corpo leggermente verso di me e, increspando le labbra lisce, mise l'aria in forma di lieve sibilo. «Fortunatamente», continuò, «il mare era liscio come questo tavolo e non c'era più aria di quanta non ce ne sia qui ora». Quel posto mi aveva colpito per la sua atmosfera intollerabilmente calda e chiusa. Mi sentivo bruciare la faccia come se fossi stato tanto giovane da provare imbarazzo e da arrossire. Avevano fatto rotta, così proseguì, al porto inglese più vicino, naturalmente, dove cessava ogni loro responsabilità, grazie a Dio. Sono rimasto a bordo di quel... La memoria se ne sta andando. È curioso come ci si dimentichi delle cose. Sono rimasto su quella nave per 30 ore. «Davvero?» esclamai. Sempre guardandosi le mani, arricciò di nuovo le labbra, ma questa volta non emise alcun sibilo. «Si giudicò opportuno», disse alzando le sopracciglia per far capire che il suo era un giudizio obiettivo, «che uno degli ufficiali dovesse restare lì a tenere gli occhi aperti», sospirò pigramente, «e per comunicare con dei segnali alla nave rimorchiatrice, capisce? E cose del genere, d'altronde questa era anche la mia opinione. Preparammo le nostre scialuppe per scendere subito in mare e anch'io sull'altra presi delle misure analoghe. Si è fatto il possibile, era una posizione delicata. 30 ore mi prepararono da mangiare, ma quanto al vino, avevo un bel chiedere, neanche una goccia. Riusciva a convincervi, senza ulteriori dimostrazioni, che il suo giudizio era qualcosa che valeva la pena di meritare. E tornando alla sua immobilità quasi assoluta, mi informò che, avendo ricevuto ordine di dirigersi a Tolone il più presto possibile, sarebbero dovuti salpare fra 2 ore. Di modo che ci sono molte cose in questo episodio della mia vita che sono rimaste oscure. Thank you. Ci inchinammo entrambi, accostammo i tacchi molto cerimoniosamente, mentre un sudicio esemplare di cameriere ci osservava con occhio critico, come se avesse pagato per assistere a quello spettacolo. «Serviteur», disse il francese. Altro sbattito di piedi. «Messier?» «Messier». La porta a vetri si chiuse dietro la sua schiena tarchiata. Vidi il buster meridionale avvolgerlo e spingerlo con forza, la mano alla fronte, le spalle alzate, mentre le falde del giaccone gli si appiccicavano alle gambe. Mi rimisi a sedere solo e scoraggiato. Scoraggiato per la situazione di Jim. Se vi meraviglia che il suo caso conservi dopo più di 3 anni una stretta attualità, dovete sapere che lo avevo visto molto di recente. Venivo direttamente da Samarang, dove avevo raccolto un carico per Sydney, un lavoro niente affatto interessante, una di quelle che l'amico Charlie qui chiamerebbe le mie operazioni razionali. E a Samarang avevo visto Jim qualche volta. Allora lavorava per De Jong, al quale lo avevo raccomandato. Procacciatore di forniture navali, il mio rappresentante in mare, come lo definiva De Jong. Non si può immaginare un tipo di attività più avaro di soddisfazioni, più incapace di accedere alla minima scintilla di fascino, tranne quella del piazzista di assicurazioni. Non so quanto l'anima di Jim si sia adattata alle nuove condizioni della sua vita. Mi ero dato parecchio da fare per procurargli qualcosa che gli consentisse di tirare avanti in qualche modo, ma sono quasi certo che la sua avventurosa immaginazione abbia sofferto i morsi della fame. Nella sua nuova professione non c'era molto che potesse nutrirlo. Era triste vederlo lavorare lì, ma lui affrontò quell'occupazione con un'ostinata volontà di cui gli devo dare atto. Seguivo le sue squallide fatiche con l'idea che fossero una sorta di punizione per i sogni di eroismo della sua fantasia, un'espiazione per avere vagheggiato più avventure di quante non ne fosse in grado di affrontare. Gli era piaciuto troppo immaginarsi come un glorioso destriero e adesso era condannato a faticare senza onore come l'asino di un venditore ambulante e lo fece molto bene. Si chiuse in se stesso, abbassò la testa e non disse più una parola. Molto bene, davvero. Tranne per qualche esplosione fantastica e violenta nelle deprecabili occasioni in cui emergeva incancellabile il caso del Patna. Purtroppo questo scandalo dei mari orientali non si estingueva ed è per questo motivo che sentivo di non aver chiuso con Jim. Dopo che il tenente francese se ne fu andato, rimasi seduto pensando a lui, non come mi era apparso nello squallido e tetro retrobottega di De Jong, dove ci eravamo scambiati una frettolosa stretta di mano non molto tempo addietro, ma come lo avevo visto anni prima agli ultimi sprazzi di luce della candela, solo davanti a me nel lungo salone della Malabar House, con il freddo e il buio della notte alle spalle. La rispettabile spada della legge del suo paese era sospesa sul suo capo. L'indomani, o sarebbe stato meglio dire quel giorno stesso, la mezzanotte era passata da un pezzo quando ci congedammo, quel magistrato con la faccia di marmo, dopo aver inflitto ammende e periodi di detenzione nel processo per aggressione e percosse, avrebbe brandito la sua terribile arma e lo avrebbe colpito sul suo collo piegato. La nostra comunione nella notte era straordinariamente simile alla vigilia di un condannato, e lui era consapevole, era colpevole. Come mi ero ripetuto più volte, colpevole e spacciato. Ciò nonostante volevo risparmiargli i dettagli di un'esecuzione formale. Non pretendo di spiegare i motivi del mio desiderio, non penso che potrei, ma devo essere stato assai poco chiaro nella mia narrazione, se ormai non ve ne siete fatta un'idea, oppure avete troppo sonno per riuscire ad afferrare il senso dalle mie parole, non difendo la mia moralità. Non ci fu alcuna moralità nell'impulso che mi indusse a presentargli, se così posso chiamarlo, il piano d'evasione di Brierley in tutta la sua primitiva semplicità. Avevo le rupie già preparate in tasca e a sua completa disposizione. Oh, un prestito naturalmente, e se avessi avuto bisogno di una presentazione per qualcuno, a Rangoon, in grado di offrirgli un lavoro, ma certo, con immenso piacere, avevo carta, penna e inchiostro in camera mia al primo piano, e mentre parlavo ero impaziente di cominciare quella lettera. Giorno, mese, anno, ore 2:30 del mattino. In nome della nostra vecchia amicizia ti chiedo di trovare un lavoro al signor James Tal dei Tali, al quale eccetera, eccetera. Dicessi ciò che volevo, scoprì che bramava affrontare la cerimonia dell'esecuzione, ma io non dissi molto perché capii che in quella discussione la sua giovinezza avrebbe avuto facilmente la meglio su di me. Lui continuava a credere laddove io avevo cessato di dubitare. C'era qualcosa di bello nella furia della sua speranza inespressa, appena accennata. Fuggire! Non ci penso neppure, disse scuotendo la testa. Le faccio un'offerta per la quale non pretendo né spero alcuna sorta di gratitudine, dissi. Mi restituirai i soldi con comodo e straordinariamente generoso da parte sua, borbottò senza alzare lo sguardo. L'osservai da vicino, il futuro deve essergli apparso terribilmente incerto, ma non vacillò, come se veramente il cuore non gli fosse mai venuto meno. Provai rabbia, e non era la prima volta nel corso di quella notte. Tutta questa disgraziata faccenda, dissi, è estremamente gravosa, direi, per un uomo come lei. Lo è? Lo è? Bisbigliò due volte con gli occhi fissi al pavimento. Era straziante. Torreggiava al di sopra della fiamma e io potevo vedere la peluria delle sue guance, il colore che si ravvivava sulla pelle liscia del viso. Che mi crediate o no, vi dico che era tremendamente straziante. Ciò mi spinse alla brutalità. Sì, dissi, e mi permetta di confessarle che sono del tutto incapace di capire quale vantaggio lei pensa di ricavare da questo vuotare fino all'ultima goccia un calice così amaro. Vantaggio, mormorò, scuotendosi dalla sua immobilità. Che Dio mi fulmini se ci riesco, disse infuriato. Ho cercato di dirle tutto quello che provo, continuò lentamente, come se stesse meditando un'impossibile risposta. Ma dopo tutto è un problema mio. Aprii la bocca per ribattere e scoprì improvvisamente che avevo perso ogni fiducia in me stesso e pareva che anche lui avesse rinunciato a capirmi perché bofonchiò come se stesse pensando ad alta voce. Scappati, finiti in ospedale, nessuno di loro ha voluto affrontarlo, loro. Scosse leggermente la mano per esprimere il suo sdegno. Ma io devo farla finita con questa cosa e non devo sottrarmi a nulla o non voglio sottrarmi a nulla. Tacque. Aveva lo sguardo di chi ha avuto un'apparizione. Sulla sua faccia persa si riflessero mutevoli espressioni di disprezzo, disperazione e risolutezza. Vi si riflessero una dopo l'altra, come uno specchio magico che rifletta la fuggevole comparsa di forme irreali. Viveva circondato da illusori fantasmi, da ombre austere. «Oh, sciocchezze, mio caro amico!» cominciai. Ebbe un moto d'impazienza. «Lei non sembra capire», disse vigorosamente. Quindi guardandomi, senza battere ciglio. «Avrò fatto quel salto, ma non fuggo». «Non intendo offenderla», dissi e aggiunsi stupidamente. «Uomini migliori di lei qualche volta hanno scoperto che era conveniente scappare». Arrossì tutto in viso, mentre io, pieno di confusione, mi sentivo soffocare. «Forse», disse egli infine, «non sono abbastanza bravo per farlo. Non posso permettermelo. Ho il dovere di vincere questa battaglia che sto combattendo. Anche adesso sto combattendo». Mi alzai dalla sedia, sentendomi tutto irrigidito. Il silenzio era imbarazzante e per porvi fine non trovai niente di meglio che osservare. Non pensavo che fosse così tardi, con un tono frivolo. «Immagino che ne abbia abbastanza», disse lui bruscamente. «E a dirle la verità», e cominciò a guardarsi in giro per prendere il cappello, «anch'io, che cosa farà dopo?» gli chiesi a voce bassissima. «È probabile che vada in malora», rispose ruvidamente. In qualche misura avevo recuperato la presenza di spirito e giudicai fosse opportuno prenderla con leggerezza. «Non dimentichi, la prego», dissi, «che prima che lei se ne vada vorrei proprio rivederla. Non so che cosa glielo possa impedire. Questa dannata faccenda non mi renderà invisibile», disse con profonda amarezza. «Non ho questa fortuna». Se ne andò, in un modo o nell'altro. La notte inghiottì la sua forma. Era un'orribile confusionaria, orribile. Udì lo scricchiolio della ghiaia sotto i suoi rapidi passi. Stava correndo, correndo letteralmente, senza un posto in cui andare. E non aveva ancora 24 anni. Thank you.